Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, siamo in diretta per una nuova settimana di Uno Nessuno 100.000, nemmeno una settimana qualunque, ricordiamo, altro che rimpasto di governo, altro che verifica di governo, tutti questi strumenti vecchi della Prima Repubblica, è la 13ª settimana decisiva per la riforma elettorale e forse ci siamo, cari ascoltatori, guardo l'Alpino, forse ci la siamo. Pitch, straordinario, no, sepe, Hernandez! Che succede? Doppietta di Teo Hernandez. Ha pareggiato il Milan. Vabbè. Siamo primi. È venuta anche in regia oggi eccezionalmente Claudia Schiattone per esultare e effettivamente omaggiare questa doppietta per uno straordinario campione e per omaggiare la capolista in Milan. Però una giornata così. Allora, 9 minuti, ci siamo, cari ascoltatori, siamo pronti per una nuova puntata con tanti temi, vai Alpino. I will not be easy, and it will not be easy. Siamo qua alle 9-10 minuti, cari ascoltatori, Non ho ricordato i numeri 800 24 00 24, oppure 349 238 6666 per i WhatsApp. Rock duro. Insomma, signori, inizia questa settimana e purtroppo la conta non finisce. Sono 105 giorni di non libertà, di prigionia, di detenzione, di sottrazione ai propri cari dei 18 marittimi di Mazara del Vallo. Questa Adesso bisogna usare questi termini, basta usare termini edulcorati, sono sequestrati, imprigionati, pedine di scambio di un gioco diplomatico del generale Haftar, una vergogna alla quale non riusciamo a porre fine. E anche Monsignor Mogavero venerdì ci ha detto che bisognerebbe smetterla di sorridere e bisognerebbe iniziare a mostrare un po' i muscoli. Accolgo così una chiacchierata che ormai facciamo ogni tanto, Marco Marrone, uno dei due armatori. Buongiorno Marco e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ovviamente abbiamo raccontato nei giorni scorsi come la liberazione nel giro di 6 giorni di alcuni marittimi turchi ha fatto veramente arrabbiare e ha fatto alzare il livello della tensione, immagino, a Mazara, no? Eh sì, la notizia della nave turca liberata in soli 5 giorni ha sicuramente è riscaldato gli animi, perché comunque, come avete detto voi poco fa all'apertura, mostrando i muscoli forse qualcosa si raggiunge più facilmente. Qui chiariamo, nessuno vuole dichiarare guerra alla Libia. Ci sono vari strumenti per far vedere che un paese è pronto anche ad azioni. Per esempio Erdogan ha dichiarato: la Libia a questo punto, dopo il sequestro, è un obiettivo legittimo della Turchia. Tante volte basta alzare anche i toni e far capire, insomma, che c'è un paese dall'altra parte che non scherza. Qui invece siamo al silenzio assoluto. Però c'è questa novità: sono stati stanziati 500.000 euro nel decreto ristori per i familiari dei sequestrati in generale, no? Dei sequestrati in questi casi. Vi sta bene? Ma guarda, la reazione anche in questa notizia dei familiari è stata sempre la stessa: a noi dei soldi non ci interessa, noi vogliamo i nostri uomini a casa. Ora, quindi è chiaro che un aiuto a queste famiglie è importante, però non è... che ci riportano le pescherecce e pescatori a casa prima possibile, perché questa è la nostra l'unica soluzione a far sì che tornerà il sereno nelle nostre famiglie. Cosa intendete fare? C'è stata anche una manifestazione davanti a casa del ministro Bonafede, che è originario di Mazara del Vallo, ma cosa intendete fare per farvi sentire? No, guarda, le famiglie stanno già ripartendo per Roma, hanno intenzione di andarsi a fare il Natale a Montecitorio, e quindi forse le accompagnerò anche io. Vediamo, non sappiamo più che strada prendere, quindi noi continueremo a tenere alta l'attenzione su di noi. Vediamo un po' se il governo veramente riesca a fare questo colpo di reni e portarci a casa tutto. L'ultima notizia: si è parlato della possibile apertura di un procedimento, un processo in questi giorni per l'accusa di avere sconfinato nelle acque di esclusivo interesse economico libico. Avete notizie a riguardo? Sì, abbiamo appreso la notizia, abbiamo chiamato subito la Farnesina, che ha smentito ancora una volta di un eventuale processo, quindi non ho ufficialità di questa notizia. Quindi ha smentito. Beh, insomma, già la Farnesina che smentisce è una notizia, nel senso che, però, chissà, magari si smentisce perché si commentano solo le notizie una volta che accadono. È quello che ha raccontato Fausto Biloslavo sul giornale. Io mi fido abbastanza ciecamente di Fausto Biloslavo. Staremo a vedere. Intanto, Marco Marrone, grazie, e noi continuiamo a contare, purtroppo. ...105 giorni. Per quel che riguarda, venendo alle questioni italiane, ragazzi, siamo alle solite. Intanto, che paese in cui si rivedono e rivedono. Giustamente oggi il quotidiano nazionale titola, il titolo più efficace, ci risiamo con le foto delle persone che vanno a fare shopping. Giustamente queste persone dicono: ma mi avete consentito di andare a fare shopping, io vado a fare shopping. E adesso si sentono bollate, additate come coloro che sprigionano il virus, irresponsabili. Ma come irresponsabili? Quando non ci si poteva muovere, quando non si poteva andare a fare shopping, non siamo andati a fare shopping. Adesso che ci hanno detto potete tornare a fare shopping e i ristoranti sono aperti con i distanziamenti, con le regole, siamo irresponsabili perché andiamo a fare shopping. Non si capisce. Ma chiudete tutto allora, fate come ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, oggi sulla stampa in un'intervista: dovremmo fare un lockdown nelle vacanze di Natale, sarebbe il periodo perfetto per un lockdown. Certo, ha aggiunto Cartabellotta, poi gli italiani farebbero la rivoluzione. Tranquillizzo Cartabellotta, gli italiani bla bla bla bla chiacchierano, si lamentano, protestano, ma la rivoluzione la fanno fare agli altri. C'è anche una vicenda abbastanza incredibile che coinvolge la virologa del Sacco Maria Rita Gismondo. Io ieri, quando ho letto la notiziola su Repubblica che oggi approfondisce, sono sobbalzato sulla sedia, perché si parla di questo convegno in cui è andata fisicamente, e sul sito di Open, per esempio, potete trovare tutti gli atti, gli audio, i video. convegno organizzato di fatto da un gruppo, una fazione politica che è molto vicina anche ai negazionisti in Germania. E in questo convegno a luglio, quindi prima ondata che ha portato diversi morti, Maria Rita Gismondo dice di fatto che ci saranno 10 morti per Covid. 10, non i 30.000, 10 per Covid. Gli altri sono con il Covid, la questione soldi. Ma vogliamo, aspetta, però c'è un altro punto fondamentale. Oggi fa un'intervista Maria Rita Gismondo su Repubblica dicendo: non sono negazionista, sono semmai troppo ingenua, sono andata a questo convegno pensando di parlare con altri referenti scientifici, sono stata ingannata, io se mi richiamano, se mi riscrivono una mail questi qui li blocco, testuale, come quando blocchi su WhatsApp qualcuno che ti è antipatico, li blocco se mi richiamano, non è vero che io abbia detto per esempio che nei camion delle immagini tristemente famose di Bergamo non ci fossero i cadaveri, io ho semplicemente detto che non lo sapevo, che ero nel mio laboratorio. Certo, a un certo punto dice questa frase, Tonia Mastrobuoni la intervista e le chiede: scusi dottoressa Gismondo, lei però ha detto in un'intervista a questo giornalista complottista tale Oliver Sykes la domanda sui camion, ha fatto la risposta sui camion, e Maria Rita Gismondo ha detto: no, io non ho affatto non ho fatto alcuna intervista, mi ha solo spedito una mail e io gli ho risposto. Ora noi siamo in grado di farvi sentire l'intervista, allora in inglese, un inglese un po' incerto, però vabbè, va a farla sentire la Gismondo. The main confusion was about the people died for COVID or with persone COVID. Morte col COVID o per il COVID. Only at the end of this period the Ministry of cioè è l'intervista, con Billy Six, lei dice di non aver rilasciato nessuna intervista, è solo di avere risposto a una mail. Ma sentite, adesso c'è la voce del giornalista tedesco. Only with COVID for COVID. All the world saw this horrible images from the gli chiede dei camion militari, lei risponde e pure dice di non aver rilasciato alcuna intervista. C'erano i cadaveri, gli chiede. I can't say anything because non posso sapere nulla, ero nel mio laboratorio, e poi aggiunge che comunque secondo lei è stato sbagliato psicologicamente mostrare queste immagini. Project this imagine because created the psychological... Cioè, ha creato il panico, però è un'intervista, però dice non ho rilasciato alcuna intervista. Ragazzi, non si capisce più niente. Parliamo del tema vaccini, che è molto interessante, e lo facciamo con l'ospite che saluto, è una docente ordinaria di diritto costituzionale alla Statale di Milano, professoressa Francesca Biondi, buongiorno e grazie buongiorno. Di essere qui. Perché lei ci può aiutare a capire qualcosa dal punto di vista del diritto, ecco, della Costituzione, che è la nostra legge madre. E, allora, i vaccini arriveranno. Si è tanto discusso adesso c'è anche tutta questa questione, come verranno, a chi verranno dati per primi, a chi verranno somministrati, eccetera. Il tema è quello che lo possiamo chiamare del patentino, va bene così, giusto per capirsi, cioè il patentino, cioè chi un domani sarà vaccinato potrà fare alcune cose e forse chi non lo sarà non potrà fare queste stesse cose. Ha sentito per esempio che in Australia, l'Australia ha detto nessuno entra in Australia se non sarà vaccinato. Come la mettiamo in Italia dal punto di vista del diritto? È lecita questa posizione? Il problema è interessantissimo quello che voi ponete. Ovviamente per ora mi pare che di patentino si sia parlato solo però a livello informale, nel senso che anche nel piano strategico del ministro non se ne parla, no? Ma semmai si vuole monitorare chi è stato vaccinato per verificare se ha degli effetti, quanto dura il vaccino, eccetera. Però il problema c'è, perché abbiamo visto che all'estero, insomma, anche se ne ragiona. Io per capire, secondo me, quali effetti potrebbe avere, dobbiamo tener conto che lo Stato quando introduce un nuovo vaccino ha due scelte: o obbliga il vaccino o raccomanda. E le conseguenze possono essere ovviamente molto diverse. Se rimaniamo sul piano della raccomandazione come è oggi, l'idea è raccomando e qualcuno dice sì, però chi lo fa al patentino? Sì. Ecco, secondo me non si può discriminare tra chi fa e chi non fa il vaccino sulla base di questo patentino. Perfetto, quindi se ci l'unica fosse una raccomandazione ne conseguirebbe una eventuale discriminazione se lo Stato sì. poi decidesse tu sì, tu sì. no. Sì, con l'unica cosa che potrebbe fare, a mio avviso, diciamo sul piano della legittimità costituzionale, sarebbe quello di esonerare chi ha fatto il vaccino e dunque al patentino da quelle misure limitative che oggi sono state introdotte per limitare il contagio, cioè chi ha fatto il patentino non fa la quarantena, chi ha fatto il patentino non deve fare il tampone molecolare se è entrato in contatto con un positivo. Ecco, solo queste misure qui potrebbero scaturire a beneficio di chi fa il vaccino, non sì. altre. Ecco, non altre, però allora chiamiamolo patentino o no, di fatto quando facciamo le vaccinazioni ai nostri figli c'è la lista, giustamente anche per tener conto delle vaccinazioni che uno ha fatto o uno non ha fatto. Quindi c'è una sorta di anagrafe, chiamiamola sì. così, dei vaccini. A quel punto io dovessi fare il vaccino, avrei nell'anagrafe del mio vaccino, ho fatto anche il vaccino Covid. Sì. L'Australia, per esempio, non mi fa salire neanche su un aereo della compagnia di bandiera australiana, la Qantas. Però quello è un problema di rapporti internazionali, cioè quella è una scelta che fa, cioè non sono situazioni secondo me paragonabili, perché noi dobbiamo ragionare di quello che può fare lo Stato italiano per i suoi cittadini. Certo. Lì è un problema di rapporti tra stati, voglio dire anche la Cina a un certo punto ha chiuso le frontiere, ha detto voi qui non venite. Quello secondo me è una questione diversa che non si muove nel piano della discriminazione tra cittadini italiani. Ripeto, in assenza di obbligo. Certo, sì. Se lo Stato italiano obbliga, allora il discorso è completamente diverso. Ecco, però l'ha visto di recente sulla questione, per esempio, delle vaccinazioni obbligatorie per entrare a scuola, per mandare i figli a scuola. Poi è un obbligatorio per cui si dice, ma non si può negare il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito a chi non lo fa. Per quello che non si vuole obbligare, secondo me. Non si può obbligare perché è già difficile rendere effettivo l'obbligo per alcune categorie. Non so, si dice tu sei un medico, se non ti vaccini non puoi lavorare, sei uno studente, se non ti vaccini non vai a scuola. Ma come possiamo per la generalità dei cittadini obbligare, rendere effettivo l'obbligo? Cioè si può scrivere, ma poi renderlo effettivo vorrebbe dire se non hai il vaccino non sali sui mezzi pubblici, non prendi il treno. Insomma sarebbe molto difficile rendere sì. effettivo un obbligo di questa natura. Questo è un rapporto tra Stato e cittadini, è già complicato. Immagino tra cittadini e cittadini, che ne so, per eventi privati. Non so, mettiamo un evento che tutti conoscono, una partita di calcio, una importante partita di calcio. Le società che sono private possono dire faccio entrare nello stadio solo coloro che hanno la vaccinazione fatta? E guardi, il principio di non discriminazione si applica a tutti, si applica anche ai privati. Io non posso dire in questo negozio entrano solo gli uomini o solo le donne, lo posso dire, lo metto in atto e poi chi viene discriminato va dal giudice. Certo, la reazione è successiva, no? Non mi fai entrare allo stadio, io poi faccio causa alla società sportiva. Certo, ecco. Non se ne esce facilmente. sì, non se ne esce facilmente così, professoressa Biondi. Cioè, o meglio, non se ne esce con il fatto incentiviamo la responsabilità individuale. Ecco. No, il patentino avrebbe un senso, secondo me, per monitorare i vaccinati, per vedere se il vaccino ha un'efficacia. E poi comunque mi aiuta, no? Perché non faccio la quarantena, se entro in contatto con un positivo, non devo fare il tampone. Cioè comunque il patentino ha un senso se incentiva, se promuove, non per discriminare. Cioè può essere introdotto per incentivare, per promuovere la vaccinazione, ma non per discriminare, colpevolizzandolo chi non vuole farlo o chi non è ancora riuscito a farlo. Sì. Poi i problemi non si risolvono, perché ci sono dei seri problemi comunque. Per esempio faccio un caso che potrebbe porsi della responsabilità dei privati nel caso in cui un proprio dipendente venga contagiato sul luogo di lavoro perché le misure di sicurezza non sono adeguate in tema di Covid oggi. No, sappiamo che le aziende devono stare attenti ai protocolli, eccetera. L'azienda potrebbe dire nel momento in cui il vaccino c'è, nel momento in cui il piano vaccinale è concluso, certo. se il mio dipendente non si vaccina, perché io devo essere ancora responsabile? È ovvio che queste diciamo intense forme di responsabilità andrebbero allentate, perché a quel punto non si può far ricadere su un'azienda. È chiaro la responsabilità. D'altra parte l'azienda non può neanche obbligare per lo stesso principio che ci ha spiegato a dire tu non vieni a lavorare se non hai il vaccino. Perché non ce l'hai. Ecco, quindi vuol dire la situazione è complessa, però finché non c'è l'obbligo, di difficile da rendere effettivo, un patentino non può discriminare. Questo sì, e l'obbligo non ci sarà. Questo non è una, non è una domanda che dovrei fare a lei, ma immagina che non ci possa essere. L'obbligo, innanzitutto, la differenza è che l'obbligo bisogna farlo per legge, no? Sappiamo, sì, che abbiamo fatto il decreto Lorenzin, era un decreto legge convertito in legge, quindi diciamo quello non sarebbe un problema, nel senso sarebbe un problema farla approvare, lei dice. Sarebbe un problema far approvare con legge un obbligo vaccinale, non è la stessa cosa inserirlo per piano vaccinale approvato dal e inserirlo con legge. Sì. Si potrebbe obbligare con legge a fare un vaccino, ripeto, con la difficoltà poi di renderlo effettivo. Io credo che partiranno con la raccomandazione forte a, sì, fare il vaccino. Io credo assolutamente come lei che sarà così, e io intanto la ringrazio, professoressa Francesca Biondi, insegnante, docente di diritto costituzionale alla Statale di Milano. E per esempio la responsabilità dei medici, che oggi viene richiamata un'intervista su Repubblica a Filippo Anelli, il capo dei medici, che dice: cari medici, forza, non esitate su questo. Ovviamente lui parla per i rappresentanti della propria categoria. Per ritornare un attimo alla questione, molti mi scrivono di Maria Rita Gismondo a dire: non ha detto che non c'erano i cadaveri. È vero, io infatti non discutevo in quella risposta al giornalista tedesco. È vero, non ha detto non c'erano i cadaveri nei camion, ha detto ero nel mio laboratorio quindi non lo so, e poi ha aggiunto è stato sbagliato a mio modo di vedere mostrare quelle immagini perché hanno impattato psicologicamente sulla tenuta degli italiani, sulla tenuta psicologica. Contestavo il fatto che Maria Rita Gismondo abbia detto non ho mai rilasciato un'intervista, e questo ho risposto solo via mail ad alcune sollecitazioni di questo Oliver Six, e invece noi vi abbiamo fatto sentire l'audio dell'intervista. È indiscutibile, questa va domanda e risposta. Questo è un po' la cosa strana. Va bene, dai, andiamo un attimo in pubblicità. Tra poco c'è Maria Piera Ceci che ci porterà notizie sull'Ascoli, notizie fresche sull'Ascoli, calcio, capire come va la situazione, e poi scuola. Uno, nessuno, 100 Milan. Esci di casa, vedi che c'è troppa gente e invece di fare una coda fuori da un negozio ti fai un bel giretto a piedi. I distanziamenti non vengono rispettati, ieri era un delirio. Milan, stai tranquillo che se i pescatori lì fossero stati cinesi, Di Maio Zetung li faceva liberare in 4-4-8. Milan, però questa musica di sottofondo, le cose anche intelligenti che dici, non si può ascoltare. Cioè, ragazzi, mette ansia, è una rottura di palle, è una roba allucinante, ti viene voglia di girare. Togli sta musica orrenda che ascoltate ormai nel mondo in 22. Tutti a scuola! Ecco qui, è arrivata fresca come una primula, rosa. Come una, no, come una primula, giusto, scusa, giusto. Fresca come una primula, Maria Piera Ceci. Cos'hai contro le primule? Non ti piacciono le primule? No, bellissimi questi, queste strutture dove ci andremo a vaccinare. Non è che ne sentissi proprio l'esigenza di avere una struttura a forma di primula per andarmi a vaccinare. Perché però, in Italia vabbè. Non si può fare semplicemente, cioè, venite a vaccinarvi alle ore 8 nel posto caserma, tot. Ospedale, no, penso strutture. La primula, vabbè insomma, ci piace un po' così. Ciao Maria Piera. Buongiorno, come stai? L'Ascoli allora ha pareggiato, pareggiato 3-3 con la Cremonese sabato. E domani? Non siamo tanto messi bene in classifica, siamo penultimi. Faccio quindi un appello alla società Ascoli. Mandate, non so, una sciarpina, una magliettina, qualcosa. Ma io ho un tutte le magliette, ma io ho di tutto a casa. Se ho vuoi scritto Ceci senza I, C-E-C-I dietro, numero 9, nostro bomber. Vai. Parliamo di cose serie, Alessandro. C'è poco da ridere qua perché insomma abbiamo parlato tantissimo della scuola italiana che chiude mentre gli altri paesi la tengono aperta, eccetera, eccetera. In realtà ha dato forfè anche la Merkel, come sai, no? Sì, mercoledì sì. Lockdown, chiudono anche le scuole. In realtà per i più piccoli no, nel senso che si lascia l'indicazione ai land di decidere e comunque i più piccoli possono sempre andare a scuola qualora le famiglie non sapessero bene come gestirli, quindi figli di lavoratori. E questa è una notizia importante perché di fatto abbiamo sempre detto che l'Italia non riesce a tenerle aperte, gli altri sì, non è poi più tantissimo vero. E poi ci sono i tavoli, sono partiti i tavoli, ne parleremo mi sa per un bel po' di questi tavoli. Continuano, parlano, indovina che cosa devono decidere? Come si riapre? Esatto, come scaglionare gli ingressi a scuola, gennaio. Come fare a non sovraffollare i trasporti. Tante riunioni, ancora poche le soluzioni, a parte un'app a Milano, viene chiesta ai nostri figli. Un'app. Sì, un'altra app, speriamo non faccia la fine di Muni, un'altra app in cui i ragazzi devono inserire i loro dati, cioè come vanno a scuola, a che ora, con che mezzi, l'hanno già fatto tra l'altro a inizio anno, ma vabbè. Vediamo un po', ad esempio, in Veneto come fanno. Elena Donazzan, assessore regionale, tra le altre deleghe all'istruzione. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a voi, buongiorno dottor Milan. Buongiorno. Ascoltatori, buongiorno. Che fate lì in Veneto? Avete app? No. I tavoli sì, però i tavoli. Siamo molto più pratici noi, sta dottor Milan, lei ormai ha imparato a conoscerci. No, diciamo che questi tavoli ci spaventano anche alquanto. Perché la cosa che ha un po' scombussolato tutti è stato quel delegare ai prefetti, quasi fosse una sorta di nuova emergenza da protezione civile, perché poi quando metti in campo la prefettura significa che hai poteri superiori, che puoi diciamo dare più che tavoli indirizzi. Noi in verità avevamo già programmato e abbiamo già un piano che la collega ai trasporti ha proposto al governo, perché non è neanche possibile fare questi scaglionamenti. Però in premessa, al di là delle cose tecniche e pratiche che secondo ecco, me vanno, come si riparte il 7? L'avete stabilito in qualche modo? Avete già una roadmap? Anche perché il Veneto è pieno di piccoli comuni, quindi ci saranno un sacco di studenti che raggiungono la scuola con i mezzi pubblici. Tra l'altro in un periodo, sappiamo, l'abbiamo sentito anche nei GR24, in cui in Veneto i contagi stanno salendo moltissimo. Guardi, lei ha detto bene, ogni regione vale per il Veneto, ma vale un po' per tutte, ogni regione ha le proprie peculiarità, noi siamo una sorta di grande città metropolitana tutta diffusa, con microcomuni, con i poli delle scuole superiori che sono però abbastanza ben distribuiti, tanto che di criticità straordinarie non ve ne sono. C'è da dire però… E quindi come fate? E quindi facciamo che noi avevamo già scritto a luglio, perché insomma, cerchiamo di fare i compiti prima che non arrivare all'ultimo, avevamo già detto che nel caso in cui ci fosse stato un aumento dei contagi e quindi della pericolosità, si sarebbe andati attraverso una didattica ibrida, quindi non tutti a scuola o tutti a casa, che sembra un po' una sorta di grande forzatura. Piuttosto capire quanto e di quanto si sarebbero dovuti alleggerire i trasporti pubblici per garantire una serenità, diciamo, di entrata e di uscita. Io però non ho ancora capito il 7 come pensate di riportare i ragazzi a scuola, ammesso che possiate riportarli a scuola, perché non l'ho ancora capito. Guardi, noi vogliamo riportarli e li riporteremo. Abbiamo valutato quanti numero di autobus servono, anzi di corse in più. Non siamo dell'idea che devono essere scaglionati con orari troppo diversi, cioè non so, si parla ora di far entrare uno alle 8, gli altri alle 10, vuol dire che tornano a casa qualcuno, proprio perché siamo piccoli paesi in giro per la regione, vuol dire che questi rientrano a casa alle 8 di sera, lei capisce che didatticamente i ragazzi non sono solo dei pacchi da spostare. Sì, poi non si può mangiare a scuola, quindi diventa anche un po' complicato. Le corse, si aumenteranno dunque le corse, guardi, insomma. Noi abbiamo calcolato le provenienze, le destinazioni, il numero di corse. Questo che lo stanno ora facendo anche gli altri, sì. Sì, no, ma noi abbiamo già quantificato quante corse in più e in quanta percentuale i ragazzi, al di là ma ce l'avete gli autobus in più per portare i ragazzi a scuola? Ci sono quelli dei privati e quindi degli accordi che da sempre ne avevamo detto di poter fare. Non questo è il grande tema, fare accordi con i privati. E l'altro aspetto che riguarda in particolare le città, e questo va segnalato, è che noi dobbiamo anche tenere conto della fila interminabile di questi pullman. Allora, sa cos'è che a me sembra? Che ancora una volta, in una emergenza, che è sempre in emergenza, sempre in affanno, si inventano tavoli, stavolta con le prefetture, per trovare delle soluzioni che andavano pianificate prima. Come vabbè, questo noi. Sì. Questo ce lo siamo detti. Donna Zan, c'è un altro tema che volevamo sottoporle, perché insomma sta rimbalzando sui giornali e sta rimbalzando soprattutto fra i presidi. I tantissimi insegnanti del sud che stanno lavorando al nord e che con il nuovo DPCM praticamente rimangono incastrati al nord, perché la scuola chiude il 23, il 21 non ci si può più muovere fra le regioni, e in effetti hanno chiesto ai presidi un paio di giorni di permesso. I presidi, giustamente, da parte loro dicono: no, non abbiamo altro personale per sostituirvi, rimangono incastrati oppure vanno al sud e poi presentano un certificato medico. È una situazione che si sta presentando anche in Veneto, molto brevemente. No, ad oggi no, ma penso che sia questa una situazione che probabilmente sobbolle, la vedremo solo quando esploderà, perché è chiaro che non si possono chiedere permessi chiedendo la scuola prima o mettendo la scuola in difficoltà, vista già la carenza di docenti che c'è e la difficoltà di tenere appunto aule distanziate, in particolare per quanto riguarda le elementari e le medie, perché in questo caso non si pone il problema per i superiori, no, superiori sono certo, i professori casa, fanno didattica a distanza dalla loro esatto. abitazione, però si potrebbe pensare a una deroga tutto sommato. Di che cosa, scusi, qua continuiamo a derogare a qualsiasi. Allora, le scuole superiori sono a casa e quindi questi docenti con tutta probabilità possono fare lezione anche da altrove, perché la lezione la fai a distanza. Se il problema si pone per le scuole elementari e le scuole medie, io credo che sia difficile, anche perché i ragazzi e i bambini sono in classe e hanno bisogno di essere coperti, quindi non esiste una deroga in effetti. Sì, il problema ci sarà tra 5 giorni, non è che il 20 dicembre, il prossimo weekend. Le chiedo questo, assessore Donazzan, lei era una di quelle che diceva: ecco, vedete, i professori regionali magari anche pagati di più. Adesso a questo punto, forse con questa polemica che può scoppiare, ritorna in auge questa sua vecchia proposta? No. Io ne sono da sempre convinta, grazie per la bontà di averlo ricordato. Però questo si evidenzia, no? La vita di una persona non è solo fatta di lavoro, è fatta di tutto, è fatta di famiglia principalmente, di relazioni, di contesti, e questo sradicamento che in Italia abbiamo sempre accettato così, perché sempre perché mancanza di programmazione, non è altro, perché se uno dicesse, tu puoi, ovviamente siamo un'Italia meravigliosa, un'unica grande nazione, ma con territori molto, molto diversificati, con esigenze di vita diverse. Questa quindi meglio che gli insegnanti del sud insegnino al sud, sostanzialmente questa è la sua tesi, anche se i posti così. certo però i posti di lavoro sono al nord, quindi non si possono trasferire le classi al sud, questo diventa più complicato. Donna Zan, in una risposta brevissima: prolungare le lezioni fino a luglio per colmare il gap formativo della didattica a distanza, sì o no? Già detto l'anno scorso. Cioè lei sì? Sì. Ah, ok, quindi andare avevo fino... Avevo proposto a maggio dell'anno scorso, visto che il picco stava scendendo, dico l'estate, visto che ci dicevano questo, dico usiamo certamente tutto giugno, anche luglio, per poter recuperare. Mi è stato risposto con neanche una risposta. I sindacati non sono tanto contenti di questa proposta, Donna Zan. I sindacati dovrebbero stare però anche nelle condizioni di dire che qui c'è un'unica grande famiglia di chi non è toccato da questa crisi, e sono i dipendenti pubblici, e io chiedo a loro il massimo dello sforzo. Grazie assessore Donazzan. Elena Donazzan, grazie per essere stata con noi, assessore regionale del Veneto, che ci ha dato tante risposte dal suo punto di vista. Cara Maria Piera Ceci, noi buon in bocca al lupo all'Ascoli. Dai, domani. Domani cosa? Domani gioca? Me l'hai detto tu veramente 2 minuti fa. Dove? Come? Con chi? Perché? Ascoli Cosenza, dai, domani alle ore 21. E dai, speriamo. Basta che leggi la Gazzetta dello Sport. Sì, è il primo giornale che leggo la mattina. Prima adesso alle 24 ore. Ecco. Ciao Alessandro. Ciao, ciao. Uno, nessuno, 100 Milan. Musica di Radio 24, è ok. Won't you come? Wash away the rain, black old sun. Won't you come? Won't you come? Hai ragione, Milan, siamo un popolo di blablatori. Buongiorno, facciamo una lotteria pure sul vaccino, vedrai quanti fanno il vaccino. La battaglia sulla musica. Leonardo Manera, buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene. Grande forma. Sta diventando una trasmissione addominale. Non sono molto presente oggi, no, infatti. Musicale volevo dire. Ah, musicale, è bello il dibattito. Vedo che la musica prende sempre più spazio e le parole meno, è giusto. Oh, meno male. Tante parole inutili dovrebbero lasciare spazio alla musica. Fai questa proposta ai vertici della radio. Va bene. Di togliere completamente le parole, fai diventare Radio 24 una radio solo di musica. Solo di musica, da solo parole. A solo musica, sì, basta con la metamorfosi, parole, sì, bla, adesso bla, che cambierà bla. Anche sede Radio 24 diventa una radio musicale. Va bene, però non dovevi spoilerarlo così. Insomma. Ah, non dovevo dirlo, no, pensavo fosse risaputo. Era una bella sorpresa finale. Vabbè, caro Leo, ben ritrovato, è lunedì, come vedi il nostro Milan è sempre primo, ma vabbè. Infatti ho visto che c'è un lieve cedimento, ma ci può stare prima. Ci può stare. Vabbè, a te. Allora, siamo alle solite. Quando peraltro, secondo i parametri previsti dal nostro governo, le zone cambiano colore, diventano gialle, le persone hanno l'ardire di uscire di casa, soprattutto nei centri storici. E in alcuni giornali, come ad esempio ieri La Stampa, scrivono che si tratta di shopping selvaggio. Tra tutti i termini, secondo me, impropri usati in questo periodo, anche shopping selvaggio merita il suo posto in prima fila. Prima, la primavera scorsa, imperversava la movida, visto che generalmente in primavera e estate, più che uscire per far compere, si esce per stare insieme, far lo struscio e bere magari un aperitivo in compagnia. Ma ora si avvicina il Natale, quindi è il momento dello shopping selvaggio. Shopping selvaggio, dall'idea di persone che escono accanite con più portafogli addosso come una cartucciera, carichi di contanti e carte di credito per assaltare i negozi e svuotarli di ogni bene. Ecco che arriva sabato pomeriggio. Dopo una settimana di lavoro smart working, marito e moglie, fiaccati dalla routine matrimoniale, comunque dalle tensioni del periodo e da tutti i numeri che vengono quotidianamente snocciolati, decidono probabilmente di evadere un po' dalla routine. Lui, il marito, chiede a lei, la moglie: amore, oggi che facciamo? E lei: ma come, cosa facciamo? Shopping selvaggio! E allora via, ad assaltare negozi come i Pelle Rossa all'assalto della diligenza, a dilapidare i ricchi ristori, ad accanirsi per entrare in tutti i negozi dei centri storici, come se davvero tutti gli italiani avessero denaro in abbondanza da buttare via. Ma davvero così? Nella zona dove abito io, ad esempio, c'è un bar pasticceria dove le persone, ieri per dire, fanno una ordinatissima fila per entrare, che di selvaggio non ha proprio nulla, e poi ci sono una serie di negozi che restano quasi sempre vuoti e che magari un po' di shopping selvaggio lo vedrebbero volentieri. Le persone vanno invece nei centri storici e li affollano. Forse sì, per comprare qualche regalo di Natale, ma soprattutto per respirare un po' di normalità, pur se muniti di mascherina, e di conseguenza si creano assembramenti. Invece questo termine, shopping selvaggio, viene da molti media caricato di significati negativi. Ecco i soliti italiani che prima pretendevano di andare a correre, poi di fare la movida, e adesso si dedicano allo shopping selvaggio. E allora bisognerebbe chiedere a chi utilizza questi termini come dovrebbe essere lo shopping adeguato e non selvaggio, visto che nelle zone gialle comunque è consentito uscire. Allora bisognerebbe essere magari silenziosi, in doloroso atto di contrizione e forse ben vestiti in delicati capotini di cashmere. Tutto questo periodo ci ha regalato una serie di espressioni che avevano l'obiettivo finale di colpevolizzare noi italiani, che però sostanzialmente abbiamo fatto solo quello che di volta in volta ci veniva permesso coi vari DPCM. E invece no, dalla movida al liberi tutti allo shopping selvaggio, è stato tutto un ricercare le colpe della diffusione del virus in noi italiani, come la ricerca del peccato originale. Mea culpa. E allora la prossima volta che andrò in chiesa a confessarmi, quando il prete mi chiederà: cosa hai fatto, fratello, quali sono i peccati di cui pentirti, io risponderò: ho fatto shopping, padre, ma non shopping normale, ho fatto shopping selvaggio. Bravo Leo, condivido parola per parola, però quando eravamo selvaggiamente ammassati su treni, metropolitane, autobus a settembre, così non ho sentito tuonare contro assessori regionali selvaggi, non so, irresponsabili. Ecco, no, esatto. Siamo... quello è vero, quello non conta, sì, sì. Non conta. Esatto, cioè gli italiani aprono allo shopping e si lamentano perché gli italiani vanno a fare shopping il sabato e la domenica pomeriggio, peraltro. Selvaggio, perché selvaggio. Lo fai in modo selvaggio. Ah, ti agitammi questo paio di calze! Scherzo questo. I pedalini! Scherzo, no, questo vuol dire, selvaggio vuol dire ammassandosi, non certo, capito, non certo, mi dia un caffè! No, non in quel senso, non in questo. Dai, sì. Si sorride, però il punto è vero e ha ragione Leonardo, cioè se è consentito, la gente che prendeva gli aperitivi ieri a Milano, ma era consentito, fino all'altro ieri no, e allora non consentitelo, se questo è non consentitelo, e punto, e la discussione è finita. Va bene, dai, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan arriva dopo la prima ora, tu pensa un po', e dopo il giornale radio, vai. Mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Uno, nessuno, 100 Milan. Leonardo, mi sa che se sono tutti come te che al bar prendi mezza brioscina, altro che shopping selvaggio. Siete proprio al male assoluto, cioè se l'informazione parte già denigrando qualsiasi provvedimento del governo, prima ancora che venga messo in pratica, ma di che cosa ci stupiamo? Che senso ha denigrare la nuova app che nessuno ancora ha visto? Ciao Milan, no, non cambiare mai la colonna sonora del tuo programma, perché è l'unica cosa buona che c'è nel tuo programma, quindi ecco, va benissimo. Milan, non ti preoccupare di chi ti dice di cambiare musica, che andate da Dio. No, ma io non mi preoccupo assolutamente, anzi Leonardo Manera propone tutta musica e quindi voglio dire, preoccupati non siamo noi. Voglio ringraziare il signore che mi ha lasciato 10 euro dal benzinaio, perché ma ho scoperto che mi era lasciate veramente, sì, quindi era vero. Ma allora vedi che sei veramente un qua che hai guardato il benzinaio, non avevo il coraggio di dirgli, chiedere. Vabbè, dai, ti ha lasciato 10 euro, vergognati. Sì, ho avuto un colloquio più approfondito col benzinaio e mi ha detto effettivamente che è passato questo signore che lavora a San Raffaele, tra l'altro non so come si chiami, ma lo ringrazio, ha lasciato 10 euro in sospeso. Ma perché a Manera che non ne ha bisogno? Io ero andato per fare 50 euro e ne ho pagate solo 40, perché 10 sono state gentilmente offerte da questo signore che lavora a San Raffaele. Tu pensa. Lo rifaccio che io lo ringrazierò anche, lasci detto il nome però di battesimo, sì, lo ringrazierò per nome. Grazie. Allora, Angelo da Bergamo, incredibile. Angelo da Bergamo, cioè lui utilizza la trasmissione Manera per ottenere delle prebende. Prego, Angelo, lei ha da ottenere qualche prebenda? Vuole chiedere ma qualcosa? No, io ringrazio di buon Natale, grazie per avermi chiamato. Ieri ero su a Bergamo, sì. Ho girato la macchina, sono tornato indietro. Perché quando vedo le persone che possono andare durante la settimana, quello che ha detto prima Manera, selvaggio, erano tutti anziani quelli che c'erano in giro, possono tutti pensionati, possono andare durante la settimana a fare le spese. Quindi lei, Angelo, però lei, Angelo, è uno di quelli, come mi ha scritto in tanti, ci vuole buon senso. Lei ha avuto buon senso, ha visto questo affollamento. Io sono tornato indietro, il mio amico in città, l'ho chiamato e ho detto: senti, guarda, ci vediamo in settimana. Oh, quindi lei fa adesso, però non la mettiamo neanche con giovani contro anziani, giovani contro anziani. No. Ieri c'erano persone di ultra settantenni sul corso di Bergamo. Va bene. Si lamentano senza mascherine, fra l'altro. Addirittura senza mascherine. Vabbè. Poi intanto Manera si fa un caffè, prego Leonardo. Prosegui pure, se vuoi impucciare un biscotto e farci sentire. Sì, adesso ho dei buonissimi biscotti, tra l'altro. Sì, tienili lì da parte, che dopo il traffico ci saranno tre ospiti insieme ai quali devo fare alcune domande sul tuo atteggiamento in cucina. Vabbè, cosa volevi dire? No, dicevo che io sono d'accordo anch'io sul buon senso. Mi dà fastidio questa ricerca, questo voler colpevolizzare sempre, trovare i colpevoli negli italiani che fanno cose consentite. Poi è ovvio che il buon senso ci vuole, cioè, certo, ma infatti sono due discorsi un po' diversi. Allora, tutti prendevano l'aperitivo, se lo prendevano con i dovuti distanziamenti e le cautele, mascherina, poi bevi il tuo bicchiere, eccetera, e stando distanziati, se è consentito, cosa deve fare? Allora non consentitelo, ritorniamo sempre lì. Vabbè, Angelo dice: cari anziani, se potete andare nella settimana, durante la settimana non affollate le strade nel weekend. Loris da Verona, buongiorno Loris. Buongiorno Milan. Allora, eccoci. Niente, io parlando tanto per cambiare di Covid, sì. Io ho la classica famiglia di due figli, un bambino di un anno e uno di 7 anni che sta andando a scuola alla primaria. Non le dico quello che è successo l'anno scorso con il lockdown, i figli a casa da febbraio, quindi non le dico neanche con un bambino di 4 mesi in casa e un bambino che sta a casa da scuola e non poter uscire, quello che abbiamo passato come tanti, immagino. Immagino. Però quello che voglio dire è che ora che ci siamo, da quello che vedo, ci stiamo andando in mezzo un'altra volta a sta cosa qua della pandemia, ma ci siamo in mezzo, è inutile dirlo, ci siamo in Germania a vedere il lockdown. Allora io dico, il governo, quello che, come la vedo io, se deve fare una cosa drastica, blocchi. Che la faccia nel periodo delle feste natalizie. Sì, lei è come il presidente della Fondazione Gimbe, dice, è proprio l'ideale per fare il lockdown, l'ideale. Il Natale, almeno, i genitori, alcuni genitori saranno a casa in ferie, alcuni, non tutti, ma alcuni. I bambini sono già a casa da scuola, sì, come da programma scolastico, quindi si faranno dei 15-20 giorni, non di più, quello che è, insomma, si faccia lì il lockdown. Sarebbe lì il lockdown praticamente, e i bambini è già programmato il discorso che sono a casa da scuola, quindi sì, le famiglie un po' tutti ci si organizza. Allora, ma è chiaro, Loris, lei è di questa idea, cioè fare il lockdown quando tutti non ci sono scuole, non c'è il lavoro, nel senso che ci saranno dei periodi di ferie, approfittiamo per fare il lockdown. Loris da Verona dice così, è un'idea che anche oggi, ripeto, il presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta ha dichiarato in un'intervista, credo, sulla Stampa. Però bene, aggiunto gli italiani farebbero la rivoluzione. Io ho detto che stia tranquillo, Cartabellotta, gli italiani con le rivoluzioni non vanno molto d'accordo. No. Sì, poi però magari si utilizzi anche questo tempo per riorganizzare i trasporti. So che è difficile, in pochi giorni ovviamente è complicato, altrimenti siamo punto a capo poi dopo. In teoria è da marzo che dovevano programmarli, sì. non è che hanno 7 giorni o 10 giorni per programmare i trasporti. Comunque, Leonardo, dopo il traffico parliamo di altro. Avremo 3 ospiti, gli autori di una trasmissione, conduttori, e di un libro. Ho delle domande anche per te, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. People too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Potremmo inventarci anche lo shopping selvaggio a cognomi alterni. Uno spettacolo. They mess around. They're doing the mess around. Governare gli italiani non è difficile, è impossibile, disse quel tale. Certo che è sempre impossibile anche avere i governanti che abbiamo. Allora, le 10:19 minuti, ora, caro Leonardo Manera, dobbiamo, da una trasmissione televisiva a un libro, dare il benvenuto a 3 ospiti. Allora, la trasmissione Cortesie per gli ospiti, che è diventata appunto anche la guida per ricevere a casa, con questo titolo, Cortesie per gli ospiti, edito da Di Agostini. Xaba Dalla Zorza, buongiorno e benvenuta, grazie di essere qui. Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo. E salutiamo anche Diego Thomas. Ciao, buongiorno a tutti. Eccolo, e Roberto Valbuzzi. Eccoli Ciao, qui. Buongiorno, eccomi. Il trittico di Cortesie per gli ospiti. Ora, ovviamente, una trasmissione nella quale si va nelle case degli italiani e poi si danno dei giudizi. Ora, se dovessimo fare la gara tra me e Leonardo Manera, sarebbe un disastro, però vincerei a mani basse, perché Leonardo Manera, questo lo dici tu. Leonardo Manera ti autonomini vincitore senza motivo, è proprio giocare facile. No, io vorrei chiedere a Xaba Dalla Zorza, detto che in questo libro, attenzione cari utenti e cari ascoltatori, non è che Sabato la Zozza scrive insieme a Thomas e Valbuzzi: leggete questo libro e saprete tutto sull'arte del ricevere. Non è così, diciamolo subito, dalla Zozza. No, infatti, anche perché ovviamente è una disciplina che si impara sul campo, però ci siamo sforzati tutti e tre moltissimo per cercare di essere chiari, almeno affinché si evitino proprio quegli errori che fanno incorrere nella nostra trasmissione in un bel 5, insufficienza. Ma dai, purtroppo, diciamole un po' le cose che vanno bene e male, è vero, sarà un Natale diverso, però non so, dalla Zorza, un consiglio per la tavola di Natale, una cosa da fare e una proprio da evitare. Ah, sicuramente è da fare apparecchiare secondo le regole, perché è facile tanto quanto sbagliare, e invece quella da non fare è seguire il consiglio di chi dice di usare il tovagliolo di carta, perché a Natale mi fa una tristezza infinita, ecco, subito, e soprattutto a casa propria penso che ciascuno i tovaglioli li lavi in lavatrice e quindi sono igienizzati, giusto? Ecco, giusto, io subito avrei preso un 4, perché dici dai, anche Leonardo Manera tu avresti messo... Io uso direttamente, sai, gli asciugoni quelli. Vabbè, vabbè, non commentiamo. Il pane dove va messo? Nel cestino al centro? Un sì, panino? Il pane si porta in tavola in un cestino del pane, ciascun ospite prende il suo panino, ovviamente senza toccare gli altri, a prescindere dal Covid-19, sì, e sì, poi lo pone a sinistra del proprio piatto, quindi fuori dal piatto. Se c'è il piattino del pane, è sopra il piattino del pane, se no sulla tovaglia, non si mette nel piatto dove si mangia. Non si mette nel piatto. Però in alcuni ristoranti c'è il panino accanto al posto di ogni commensale. Già nel piattino, giustamente. Nel piattino. Al ristorante si usa apparecchiarlo sin dall'inizio, perché ovviamente l'apparecchiatura al ristorante, ce lo dirà anche Roberto adesso, è differente da quella di casa. A casa si può fare nei due modi, farlo trovare già nel piattino oppure, più facile secondo me, portare il cestino. Ecco, Roberto Valbuzzi, immagino sarei d'accordo, insomma, con queste indicazioni dette dalla regina Xava Dalla Zorza. Che cosa? No, io volevo chiedere questa cosa. Sai, Roberto, Manera ha un piatto forte. Ecco. Potresti ricordarcelo, Leonardo, qual è il tuo piatto forte? Beh, ma è il piatto preferito da mio figlio, che faccio sempre per lui: l'insalata col pangrattato. Quindi faccio l'insalata, che condisco con olio e aceto balsamico, e poi rovescio dentro l'insalata una grande quantità di pangrattato in modo da assorbire il condimento. Ora, Roberto, andrebbe provata, però così a naso. Comunque, perché guarda, cioè, si può, passatemi il termine, gourmettizzare in modo molto facile, perché quel pan grattato si usa magari, non so, del pane lasciato lì una giornata, insomma, che magari è il pane del giorno dopo, il classico pane del giorno dopo, un pochino più duretto, si fa saltare in padella con un po' di olio, un pochino di erbe aromatiche varie, quindi si fanno una sorta di crostini molto, molto sottili, e poi si versa sull'insalata dopo averla condita e resta un qualcosa di croccante che sicuramente dà una nota in più a un'insalata magari un po' più semplice. Ecco, quindi è una ricetta che può essere tranquillamente fatta. Magari si fa sciogliere un'acciughina in padella intanto che si fa andare il pane, che così resta questo profumo leggermente di acciuga, molto molto buono. Perciò non è proprio una banalità, quella che è. No, che no, ma infatti è che lui lo fa banale. Messo così è già l'acciughina, la padella a saltare, aromatizzare, è tutto già un'altra cosa, un altro sentire. Ma come Roberto Valbuzzi si dice, gli italiani sono sempre, come dire, il re e regine della cucina. È davvero così nella vostra esperienza pratica, ovviamente, entrando nelle case? Senza fare torti a nessuno direi di no. No, ecco. Direi di no, ma perché purtroppo io avendo appunto avuto l'esperienza e facendo l'esperienza con i miei colleghi di questo programma ormai da parecchio tempo, posso dire che le persone sono piuttosto abitudinarie e quindi questa cosa purtroppo ci porta a una chiusura a livello di voglia di sperimentare, ma anche semplicemente di cambiare la propria routine totale. Quindi in generale ci si fissa su quattro cose che sono quelle e si portano in tavola e ci si nutrisce da questo punto di vista, a livello di proprio di di pancia, possiamo così dire. Invece le persone, secondo me, dovrebbero metterci leggermente più attenzione in ciò che preparano, perché ovviamente è il primo nutrimento del proprio corpo. Un po' di fantasia anche, magari, aprirsi a novità. Ma anche senza aprirsi più di tanto a novità. Proprio il fatto di ricercare o di informarsi, esempio, dico l'esempio banale del pane saltato in padella, adesso, come rendere un po' più prezioso quello che tutti i giorni si fa già. Guarda, e questa cosa è uno spezza routine che secondo me nella quotidianità dà tanta positività al momento del pranzo, cantando con piccole cose e tutto. Dai, stupendo, perché arrivano messaggi, c'è un'ascoltatrice, Giuseppina da Modena, che ci ha mandato la foto del suo cucchiaino da dessert. Adesso ci arriviamo con Xava dalla Zorza. Prima vorrei chiedere anch'io a Diego prima vorrei chiedere a Diego Thomas, aspetta, cosa rende accogliente la casa, Diego? Quando uno entra, cosa sono le luci, la disposizione del divano? Cosa bisogna fare per rendere... Che è come se mi chiedessi come farla bella, cioè, la domanda è un po' ampia. Adesso, quanto tempo hai? Perché potrei rispondere... Nel senso, per esempio, che colori vanno adesso? Cosa consigli? Total white oppure allora, colori? Adesso, siccome siamo stati chiusi a casa, poco a contatto con la natura, con l'ambiente che ci circonda, col paesaggio, quello che vedo è che c'è molto il bisogno di riportare all'interno delle nostre abitazioni appunto il paesaggio, l'esterno, in modo di sopperire a questa mancanza a cui siamo stati costretti. Quindi quello che vedo che è il trend principale è quello di riempire casa di piante e usare i colori della natura, della terra, gli ocra, verdi, quindi piante e colori della natura, riportare un po' di natura in casa. Beh, bella questa, assolutamente. Sì, sai, siamo stati tutti rinchiusi, quindi insomma. Ma vere o anche di plastica? Eccolo lì. No. Questa è la domanda tendenziosa. Ovviamente vere. Sì, perché sennò che natura è? Allora, la questione del cucchiaino, invece, torniamo alla questione della tavola, Xaba dalla Zorza. Allora, cucchiaino da dessert, no? Allora, io vorrei fare un appello agli italiani, perché a questo punto ci vuole. Il cucchiaio da dolce non è indispensabile averlo, ma se non l'avete, non sostituitelo con quello da tè apparecchiandolo a tavola, portatelo al momento del dolce direttamente insieme al dolce sul suo piattino, perché ormai è quasi imbarazzante quando li trovo ancora apparecchiati e sono quelli da tè. Come riconoscerli? Le misure contano, almeno a tavola, quindi quello da dolce ha una misura che è a metà tra quello da minestra e quello da tè. Semplicissimo. Ecco, a metà. Che curiosità avevi, Leonardo? Prego. Se invito a cena delle persone, quanti bicchieri devo mettere per ogni commensale? Allora, minimo uno e massimo tre. Se c'è un vino, di solito noi italiani quando invitiamo qualcuno il vino lo prevediamo sempre, direi uno per l'acqua e uno per il vino. Se si vuole cambiare vino si può apparecchiare anche il terzo bicchiere, però insomma è un po' una cosa pretenziosa, quindi io consiglio sempre due e poi di portare il terzo bicchiere al momento in cui serve, con il dolce piuttosto che con il secondo se si vuole cambiare il vino, sparecchiando ovviamente l'altro, in modo che in tavola ne restino due. Poi se avete una tavola enorme perché avete voluto fare il distanziamento sociale e allora risulta un po' vuota, apparecchiatene pure tre. Più di tre. Sinceramente non va bene. Ovviamente nel libro Cortesie per gli ospiti tutte queste cose sono ben dettagliate, ben spiegate, per esempio come fare un invito, se al telefono, se con un messaggio piuttosto che con una telefonata. Un'altra curiosità. Ma è buona regola alla fine della cena fare magari un piccolo omaggio agli ospiti o è cattivo gusto? Qui il nostro programma ragiona all'incontrario, perché noi andiamo sempre a casa con un regalo e non portiamo mai nulla. In realtà nella vita reale si fa il contrario. Chi va a cena a casa delle persone porta un presente e normalmente va a casa a mani vuote o al limite alcune padrone di casa magari ci tengono a lasciare un qualcosa di personale come biscotti fatti per il Natale, un cioccolatino, però le buone maniere prevedono proprio il contrario di quello che facciamo noi in trasmissione, cioè arrivare con un dono e andare via a mani vuote, ovviamente. E se non si porta un dono la sera stessa, si può spedire il giorno dopo, soprattutto per i fiori. Ecco, i fiori recisi a mazzo non si portano mai alla padrona di casa al momento in cui si va a cena, perché lei avrà già, lei o lui avrà già abbastanza da fare, e anche dedicarsi a scegliere il vaso, metterci l'acqua, tagliare i gambi, insomma, porta via un po' di tempo. Io vorrei capire da Diego Thomas qual è la casa che più l'ha colpito, un particolare in tutte le trasmissioni, un qualcosa che proprio, ah, questo non me lo sarei mai aspettato in senso positivo, eh. Beh, nel libro ci sono alcuni racconti, che, alcuni aneddoti sulle case che abbiamo visitate, alcune assurde proprio, ce n'è uno simpatico dove c'era una specie di letto appeso al soffitto con un argano che scendeva elettricamente con tutti degli specchi sopra. L'ho trovata una cosa da non fare, da però non sicuramente fare. Una cosa inaspettata. Da non fare, però, però, da non fare, però. Sorpreso, esatto. Ingegneristicamente, come. E invece da Roberto Valbuzzi un piatto sul quale magari ha dato 5, ma in realtà poteva essere anche 0, 1, 2. No, beh, sono dei piatti a cui ho dato anche 3 senza problemi. Anche 3. Ce ne sono parecchi, ecco. La cosa che mi viene in mente, insomma, in modo più frequente, e sempre vari fagiolari, vongole o cose che siano non spurgati, e quindi con la sabbiona. Tra l'altro l'aneddoto divertente è che qui c'era sopra, parlando sempre di pan grattato, in un piatto famoso che abbiamo mangiato, del pan grattato, ma anche una cospicua quantità di sabbia all'interno, e facendo dei gestacci a Diego, lui non riusciva a capire che gli stava dicendo di non mangiare quel piatto perché c'erano all'interno un sacco di sabbia, e lui pensava che fosse il pan grattato, mi diceva croccante, buono. Croccante la sabbia, no, ma io nel dover ringraziare e salutare, ricordo, Cortesie per gli ospiti, edito da De Agostini, Xaba Dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Xaba, se non le faccio questa domanda, la mia amica Valeria mi ammazza, mi chiede, ma quando non è in onda, come si veste a casa? Sempre con la stessa cura? Uguale, quando uguale. Non sono in onda sono vestita più o meno uguale. Uguale, bene, perfetto la risposta. Però porto perfetto. Anche i pantaloni, questo bisogna dirlo, perché qualcuno pensa che non li porti mai, invece in trasmissione no, ma nella vita vera ogni tanto sì. Grazie davvero di essere stati con noi, feste. E molti scrivono un bel regalo per mia moglie, vabbè, comprate il libro, lo trovate in libreria, borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Anch'io l'ho mangiata mille volte, insalata, olio, aceto e pan grattato, è una bomba. E se il pan grattato è abbrustolito, doppiamente bomba. E vabbè, ma ormai l'abbiamo stabilita questa cosa, dai. Alle 10.39 minuti anche noi, come tante trasmissioni di Radio 24, oggi vogliamo dare uno spazio alla classifica annuale della qualità della vita pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. Ormai lo sapete, Bologna ha vinto quest'anno, ma insomma tutti i dettagli li trovate sul Sole. Antonio Noto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Antonio Noto di Noto Sondaggi, direttore che oggi scrive anche sul Sole 24 Ore un'analisi molto complessa e molto interessante. Ci sono alcuni dati su cui fare alcune riflessioni. Per esempio, mi colpisce molto questo dato: per un terzo degli intervistati nulla sarà più come prima. Ovviamente per il Covid, è impressionante questa statistica, Noto oppure no? Beh sì, diciamo che c'è una doppia reazione da parte degli italiani, no? È come se in ognuno di noi convivessero due sentimenti che in teoria teoria potrebbero essere anche contrapposti, però in realtà, ecco, io li, come dire, per me sono più complementari che contrapposti. Da una parte c'è una sorta di pessimismo sia rispetto all'esistente e sia rispetto al futuro. Mm-hmm. Dall'altra parte però prevale anche una sorta di ottimismo, nel senso che la maggioranza degli italiani ritiene che comunque questo è un momento provvisorio, che a breve le cose cambieranno, sì, e che quindi si ritornerà come prima. Però dall'altra parte, ecco, per la maggioranza dei cittadini questo è un momento per cambiare le proprie abitudini, per cui anche nella ricerca, quindi il cambiamento, l'idea dello sfruttare questa situazione non bella per cambiare in positivo. Quindi se è vero che c'è un lato, diciamo, depressivo, dall'altro lato c'è anche un dato invece positivo, nel senso che si vede questo momento, al netto ovviamente delle tragedie, anche come un'opportunità per cambiare in meglio la qualità della vita. Un altro dato che fa il titolo oggi sul Sole 24 Ore, e ce ne siamo occupati varie volte in trasmissione: per l'86% degli italiani è prioritario il servizio medico sul territorio, quello che abbiamo un po' devastato in questi anni, e adesso se ne sente la mancanza, è noto. Ma sì, ormai, diciamo, il problema sanità è un problema, diciamo, che ha i massimi livelli. Quando noi facevamo i sondaggi prima del Covid e chiedevamo quali fossero le emergenze da affrontare, c'era l'economia, il lavoro, e la sanità era sì importante, ma comunque era sempre tra il quarto e il quinto posto. Oggi, quando chiediamo quali sono le tematiche, le problematiche da affrontare, al primo posto, ma con tipo oltre l'85% delle indicazioni, c'è la sanità, e addirittura il fisco, le tasse, la sicurezza invece tematiche che seguono anche, diciamo, molto dopo rispetto alle indicazioni, rispetto alla sanità. Come è cambiato il mondo, come è cambiato il mondo, sì, in 9 mesi è cambiato davvero tutto. Sì, e poi c'è la convinzione, dicevo, c'è che molte persone lavorino da casa, viene valutato positivamente dagli italiani o negativamente? Assolutamente sì, diciamo, internet è stato un mezzo che ha contribuito, come dire, a diciamo, a fare in modo che la qualità della vita non potesse, diciamo, avere degli standard significativi, e internet ha contribuito sia nello smart working, ha contribuito negli acquisti online, però, diciamo, ha contribuito poco invece nelle amicizie online, no? Per quanto ovviamente in questi mesi è aumentata l'interazione web anche con gli amici, molto spesso si parla anche di brindisi e di compleanni festeggiati in web, però i cittadini non vivono questo come un elemento migliorativo rispetto alla propria vita. Invece le cose che si sono aggiunte, smart working, acquisti online, ecco, questo invece è stato percepito come elemento positivo. E insomma, che cosa incide secondo lei ora più nello stabilire la qualità della vita nell'era post-Covid o in pieno Covid rispetto a prima? Alcune cose ce le ha già dette. Sì, sicuramente l'area di residenza, o meglio, abitare in un grande centro urbano oppure abitare in un piccolo centro urbano. Ecco, sì. Teniamo presente che quasi ovviamente la metà, a discapito, immagino, del grande centro urbano, cioè è meglio stare in uno piccolo. Sì. In uno infatti, piccolo. Anche se solo nell'immaginario, ma circa la metà dei cittadini che risiede nei grandi centri urbani in questo momento vorrebbe vivere o in un piccolo centro urbano oppure in un centro urbano magari non piccolissimo ma lontano dal proprio centro urbano residenziale in cui vive. No, questo ovviamente nell'immaginario, cioè non è detto, certo, che poi tutti hanno questa possibilità di compiere, diciamo, questo gesto. Però quando noi somministravamo la stessa domanda anni fa, prima del Covid, nella realtà il livello di soddisfazione di vivere nei centri urbani grandi era molto spesso maggiore rispetto a coloro i quali vivevano nei centri urbani più piccoli. Certo. E grazie Antonio Noto, ovviamente tutti i dettagli sono sul Sole 24 Ore, poi oggi alle 16 c'è un webinar in cui ci si può informare, in cui tutti questi dettagli che trovate sul Sole verranno anche illustrati. È la classifica della qualità della vita da anni, il Sole 24 Ore è un appuntamento imprescindibile, ripeto, quest'anno vince Bologna. Poi ovviamente è chiaro che, Leonardo, tutto è suggestivo. Tu, se fossi a Bologna, manterresti un po' di amarezza comunque, no? Per esempio, pur essendo... Ma io vorrei andare a San Nazaro, per esempio, che è un piccolo posto, una piccola cittadina fuori Bologna. Così. Perché si vive meglio a San Nazaro rispetto che a Bologna. Va bene, se lo dici tu, andiamo al traffico con questa convinzione. Uno, nessuno, 100 Milan. This was never the way I planned, not my intention. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. Allora, signori, sono le 10:48 minuti e torna con noi in questo momento di grande incertezza il nostro virologo. Sapete che ogni trasmissione ha il suo e noi anche abbiamo il professor Piero Picchio. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti gli ignoranti all'ascolto. Eccolo, buongiorno, buongiorno. Lei si pone subito in un modo un po' fastidioso. Ma più che fastidioso, realista. Mi sembra meglio essere realisti che ipocriti. Sì, vabbè, lei certamente non è ipocrita, però... Ma inutile dire che gli italiani non sono ignoranti quando l'evidenza è del tutto diversa. Vabbè, un po' di diplomazia, ecco, chiederei questo. Allora, prima di cominciare, ripetiamo il mantra, gentilmente. Sì, al 3, 1, 2, 3. Lode a te, o virologo. Bene. Grazie. Allora, avete voluto andare a fare la movida l'estate scorsa? Vi è piaciuto strusciarvi a destra e a sinistra con i primi arrivati? Vi siete sollazzati a bere mojito uno dopo l'altro? O buttarvi tutti insieme nel mare? A salire sulle spalle degli altri per buttarvi in acqua? Poveri animaletti. Adesso raccogliete quello che avete seminato. La seconda ondata, alla quale, se continuate così, seguire la terza, la quarta, la quinta, prima di tornare alla vostra bella vita che facevate prima, sappiate che ci vorrà molto tempo. Vabbè, saranno i vaccini, magari. Siete tutti lì, ansiosi, preoccupati, perché non potete fare il cenone in compagnia con cotechino e lenticchie. Se per un po', invece di pensare al cotechino, alle lenticchie, al trenino, vi foste chinati qualche volta sui libri, ora non saremmo a questo punto. Vabbè, adesso... Se l'estate scorsa, invece di ubriacarvi come bestie, vi foste dedicate qualche libro in più, a Natale avreste potuto vedere anche i parenti che abitano in un comune diverso dal vostro. Che se uno legge, cari studia, animaletti, cioè... ignoranti, adesso... è solo colpa vostra, ricordatevelo. Non c'è gente nulla? Laureata, professore. Non sapete nulla. Non sapete nemmeno cos'è il betacone cloridrato. Il betacone cloridrato nessuno lo sa. Secondo me. Vado a vedere su Wikipedia. Digita tic tic tic tic con le sue manine su Wikipedia. Betacone cloridrato. Ma è finto, dai. È finto. Posso dire qualsiasi cosa? Che lei non bella risata, nulla. Ma perché non la brevetta questa bella laureato risata? In scienze politiche, sì. Senta, professore. Allora, sì, dica. No, perché ci sarebbero delle domande degli ascoltatori. Ah, bene, io non capisco come mai le facciano delle domande, ma gli ascoltatori... Sì. Sentiamo. Va bene, sentiamo. Guardi, la prima è Marina dalle isole Tremiti, la salutiamo, grazie. Sì. Marina vuol sapere se la prossima estate torneremo a vivere normalmente. Dai, la prossima estate. Cara Marina dalle isole Tremiti, come sono stati originali i tuoi genitori? Abiti al mare, ti hanno chiamato Marina. Vabbè, adesso. insomma. Cosa hanno studiato i tuoi genitori? Banalità applicata. No, no. Ma è un bel nome. nome, Marina. Su. Se i tuoi genitori fossero stati commercialisti, cosa ti avrebbero chiamato? Iva. Certo, ma tu abiti alle isole Tremiti, allora ci tieni a sapere se la prossima estate potrai tornare a fare snorkeling con la tua bella mascherina alle Tremiti. Per esempio, eh? Perché no? Mm. Perché no? Sappi, cara Marina, che la prossima estate l'unica mascherina che potrai continuare a usare è quella chirurgica. Perché probabilmente le uniche ondate che potrai vedere non saranno quelle del mare, ma quelle del coronavirus. Quindi stai a casa. Stai a casa. Va bene, ci spostiamo un po' più a nord. Salvatore da Napoli vorrebbe sapere se dobbiamo fidarci a fare il vaccino. Questa è una domanda, caro professor Picchio, che si fanno tanti italiani, eh? Salvatore da Napoli. Visto le domande che fai, caro Salvatore, più che a salvare gli altri dovresti pensare a salvare te stesso. Salvatore, se dovessimo affidarci a te per essere salvati, sicuramente avremmo già tutti un piede nella fossa. Vabbè, tu, dai, caro Salvatore, che ironia brutta, non ti devi né fidare né non fidare del vaccino, perché com'è? Non sai niente. Devi fare solo quello che ti dico. E intanto puoi continuare a mangiare la pizza, caro Salvatore. Dedica la pizza e non farti domande sul vaccino che sono fuori luogo. Fuori luogo da chi non sa nulla. Vabbè, non ubbidisci, so. Ubbidisci e basta. Ubbidisci. E stai a casa. È un cane, Salvatore da Napoli. Insomma, un ascoltatore. Fa domande sul vaccino, vuole sapere del vaccino. Guardi, allora sentiamo, c'è un'altra domanda. Torniamo un po' più al sud, in Sicilia. Antonello da Messina vorrebbe sapere questo: per proteggerci dal virus può essere utile la vitamina C? Professor Picchio. Ma non rida, cioè se la risposta è no, dica no, non irrida gli ascoltatori, scusi, professore. Antonello da Messina è come il pittore, la differenza è che Antonello da Messina dipingeva santi e madonne, tu invece con le tue domande dipingi una serie di idiozie. Il contemporaneo Antonello da Messina, pittore di idiozie. Allora, caro Antonello, se la vitamina... venga al punto, professore, dai, la vitamina se C. La vitamina C servisse, non credi che qualcuno te l'avrebbe già resa obbligatoria? Tu invece no, ti fai queste domande. Allora vai a farti un bel bagno nella spremuta d'arancia, così vedi che il coronavirus lo puoi prendere lo stesso, però almeno fino a quando stai nella vasca a fare il bagno nella spremuta d'arancia non puoi uscire, perché l'unica protezione contro il virus è stare a casa. Poi in realtà non è proprio vero. Mi sembra di aver risposto in modo esauriente alle domande dei nostri animaletti. Eccolo. Va bene? No, preferisco ascoltatori, se lei gentilmente me lo consente. Ascoltatori. Professor Picchio, la ringrazio. Sai che nella regione Marche danno come massima onorificenza il premio il Picchio d'Oro? Naturalmente, è un riconoscimento alle mie grandi qualità. Non è vero. Ma naturalmente ma non è così. È vero. È naturale. Ma non è vero. Il premio Picchio. Picchio d'Oro, ma non è. Esatto. Ma non è. Legato a lei. Riconoscimento al grande virologo Piero Picchioso. Non è vero. Non si attribuisca meriti non suoi. Non è vero. Però esiste il premio Picchio d'Oro. Va bene, professore, la ringraziamo. Ci ritroviamo domattina alle 9. Uno, nessuno, 100.000.